Siamo nel piano di Davide, appena abbiamo fatto guardare a lei con i suoi guanti speciali, ed abbiamo visto che ci sono quattro gagnetti meccanici. I retriever, quelli che avete trovato nella piramide, quelli che stavano in piedi, quelli che stavano pietrificato permanentemente, esatto. Quelli che fanno bounce sono morti fisicamente, direi. Cioè, sì, li abbiamo uccisi velocemente, soprattutto Damasco. Tipo in un round, strano, le solite cose alla Damasco. Esatto, ma lui ha fatto le torte, però, che fa anche le torte buonissime. Damasco, secondo me, è proprio buonissimo. Quello proprio da spago. Ok, poi siamo salito le scale ancora per un po' e pensavo di fargli un grande agguato a un ciccione, invece ci ha cattati dentro la porta. Il ciccione, spiega chi è il ciccione, il ciccione si chiamava Crack, maestro del fuoco. Esatto, addirittura, cioè proprio. E era davvero un maestro del fuoco, infatti. Ma tutto questo sempre dentro l'albero. Facevo un nonostante la sua presentazione, cioè, Baka ha pensato bene, sì, gli faccio un attacco col fuoco, no? Giustamente, pensavo che facesse un qualche tipo di male. Però vabbè, 8 di intelligenza, quindi giusto. Però comunque fatto... Il giocatore rappresenta benissimo o una sola abilità, che puoi mettere l'intelligenza o la saggezza. Vai. Allora, siamo entrati dopo varie presentazioni in cui il nostro Abram era invisibile, giustamente non ha voluto prendersi le botte. Siamo quasi morti, visto che era talmente sgravo che era due Mythic Tire, giusto? No, quello che faceva fare due azioni. Che faceva giusto? Sì, giro esatto. Due esatto, lo faceva fare non due azioni. Se ci pensi, scusa, due nemici aumenta il 2 CR e lui non aveva il doppio dei PF, quindi giusto come esatto. Giusto, certo. Potevo metterne due di lui se si discoccia. Devi pensare che probabilmente vabbè, io non avevo l'ago, visto che ero avevo un cazzo di kunai nelle gambe del tavolo. Allora, Crack maestro del fuoco ci ha picchiato. Ci ha picchiato per bene. Infatti stavo pensando come di... degli scolaretti, esatto, che non hanno i soldi per la merenda da dare al bullo. Sì, esatto, o l'arma, che si voglia. O l'arma. Esatto. Stava pensando di filarcelo quando Damasco ci ha salvato il culo con una volta. Come al solito. Come al solito e ha fatto un critico. Un critico. Che ha poi dato uno sdoganato tutto. Esatto, dopo lì che c'è stata una dimensione. Una sequela di 20. Una sequela di esatto. 20. Uno no. Stava anche per morire a fuga di sberle con le Claw, però poi. calma, però qualcuno è morto. Esatto. Qualcuno è morto, qualcuno c'è rimasto. C'è rimasta. È come morto? Perché Crack maestro del fuoco era una menata. Era un vampiro. Sì, no, mi ha morsa. Sì, esatto. Cioè, l'ha morsa e le ha succhiato il sangue. Esatto, poteva decidere se sterminare tutto il party o succhiare sangue a lei, quindi grazie. Era più figo essendo un vampiro, cioè, visto che ha messo queste abilità flevorose, una volta che il master è in vantaggio potrà usare una abilità flevorosa, no? Certo, infatti. Mi sembra giusto. Giusto. Ma perché non potevo fare la vampirella e andare in giro? Perché eri un CR4, ovvero come se fosse un personaggio di livello 5. Se vuoi puoi farlo. No, meglio di no. Scherzavo. Ok, poi? Poi siamo riusciti a sconfiggerlo nel round seguente. Solo che essendo un vampiro, quando muore, bravo, deve rientrare nella propria bara. Cioè, esatto, cioè non è che muore, ma diciamo che diventa una nuvoletta, sì, e si rifugia nella propria bara. Aspetta, che qua è ascolta, che qua è importante. Stavamo per diciamo andare a spaccare la bara, insomma, a finire il lavoro, quando a un certo punto è sbucata dentro. Dal nulla, cioè anzi, dal nulla, cioè, ha sfondato la parete. Una tizia che ci è stata identificata successivamente come una. Ah, cavolo, non ho ancora l'immagine, scusate. Come una? Una tizia di uno dei generali. È un demone che, esatto, successivamente è stato detto che è un altro generale. Esatto. Il signore dei nembi. Esatto, che appunto sono alleati contro i diavoli della zona. Vabbè, sostanzialmente riesce a portare via la barra, noi non poniamo resistenza in perché siete conciati un po' male. E poi giustamente noi abbiamo avuto un solo scopo, cioè librare. Ma lei, diciamo, lei non dice niente, lei prende la barra sulla spalla. Non lo so, è arrivata lì una. Sfonda la porta, prende la barra sulla spalla e se ne va da dove è venuta. E noi diciamo ok, ciao. Poi va il nostro amico diavolo. Bilaxar, non ricordavo niente, cioè, nomi zero io. Bilaxar, che ha mantenuto fede alla sua parola, quindi ha risposto alle nostre tre domande. Abbiamo messo un po' di delle domande. Tre domande, ci ricordiamo quali sono le domande? Avete chiesto allora la natura dei avete chiesto esattamente le domande. No, vabbè, più o meno la nostra destinazione. Abbiamo scoperto che era è il regno di Taraka, esatto, il maestro, sì, okay, il signore di tutti i diavoli. Poi le altre domande, quali non le ho capito, Giorgio? Dove stiamo andando? La regione che è piena di Azratite. Certo. Abbiamo scoperto che in realtà non è un luogo desolato e privo di popolazione, ma è il regno del signore supremo dei diavoli, il capo di Bilaxar. Ok, che era il demone che abbiamo trovato. Taraka. Poi gli ha chiesto cosa avevamo trovato e lui ci ha detto che non era possibile tornare indietro sul passare. Ah sì, gli abbiamo chiesto come si fa a tornare indietro e lui ci ha detto sinceramente che non è possibile, ma lui non sa che c'è un mondo fuori. Noi abbiamo anche invitato al di là della, al di là del muro del mondo di Smeraldo, si chiama l'impero di Smeraldo, cioè lì non sanno niente di l'impero di Smeraldo, c'è un fellone, esatto. In più lui ritiene che oltre il la città di Taraka ci sia una fossa che a sua volta termina il mondo, quindi noi possiamo ritenere che ci sia un mondo ulteriore al di là, diciamo, per simmetria. Okay. E questa è la seconda domanda. Invece la terza domanda riguardava, tu ti ricordi, Danilo? No, io mi ricordo che tu, cioè, non ci ricordiamo, fa niente, in più tu gli hai detto, sì, non ho scopo di mentirti, quindi sappi che c'è un altro mondo. Va bene, dove c'è stato il flauto, però non era, io ho rivelato al diavolo che si sbagliava, cioè gli ho detto fai quello che vuoi di questa informazione, poi sei libero di considerarla falsa, ma ti dico che ti sbagli sul fatto che non c'è un altro mondo. L'altra domanda, vabbè, non importa, sulle difese, dai, forse no. Cosa che ah no, come è andata la guerra, no? Sì, ah giusto, esatto. Giusto, che è successa centinaia di fa, mille anni, cioè, fa. Com'è il clima politico in queste dune del diavolo? Abbiamo scoperto che ci sono, vabbè, due fazioni di non una fazione, ah giusto, i Suli, i suoi antenati di Baka, il barbaro, prima dominavano queste terre. Dopodiché sono giunti i diavoli che, come sai, offrono patti, tengono anime in contraccambio di abilità e ricchezze, e con passare delle generazioni piano piano hanno logorato la mente e attraverso i patti anche il corpo di questi Suli, che alla fine sono morti tutti, eccetera, ma sono tornati per vendicarsi nella forma di non morti. Esatto. Quindi la battaglia impazza. Sì, è uno di, cioè, i vari non morti sono tutti Suli, diciamo, sono parenti, o comunque, cioè, derivano da Suli, anche se vuol dire un ogre, per dire comunque, cioè, magari sei incarnato. Certo, no? Certo. E questo, quindi sogno, la guerra è di, ma lui come ha fatto ad arrivare lì? Chi? Il signore dei Nembi? No, l'ottimo diavolo con cui stampa. Perché vola molto velocemente. E sei liberato, sai che questo tipo aspettato comunque un paio di minuti. Ah, noi abbiamo sconfitto il tipo lì. Sì, e si è quando aperta. Abbiamo sconfitto, si sarebbe sciolto l'incantesimo che tenevo lì. Esatto. E un monaco fortissimo quello, giusto? Ok. Ragazzi, e adesso siamo tornati alla nave. No, adesso siamo ancora lì. Siamo ancora lì. Com'è che abbiamo finito? Dovevamo resuscitare. Una cosa. Ah no, abbiamo parlato Bilaxa, di diavolo. Sì, esatto. Bilax si è anche giusto offerto, diciamo, di offrire un servizio, no? Di mutuo scambio. Ovvero lui accetterà i vostri soldi e i vostri oggetti magici che riperirete durante l'avventura in cambio di altri oggetti magici. Insomma, li farà da mercante, fondamentalmente. Denaro. Non lo so. Se vuoi, okay. Sì, puoi cedergli la tua anima. Ma viene con noi? Posso dire che alle volte gli do la mia anima. No, Bilaxar cambia la braccia di topi la forza. Bilaxar ci ha dato un flauto di vetro che perché? se suonato lo fa arrivare. Ho solo la più due. Ok. Quindi chi lo tiene? Tu. Per ora ce l'ho io, ma chi vuole? No, i fessi sono io, te ne ho io. Io no. Dopo la riorganizzazione delle skill, il primo commento è stato: si è diventato quando ho visto il flauto, non è utile per picchiare, non ci serve. Il barbaro Demostene nel foro. Perché dobbiamo picchiarli tutti? Oh, Cartago dell'Enda, tipo che Cicerone. Ok, niente. Anche, cioè, avete anche comprato un unguento della reincarnazione. Due. Uno per lei e uno per il futuro. Uno per il futuro. Quanto costa? Visto che il master 1400 monete d'oro. No, se fate una cosa, anche tu. Volevamo solo per il tipo. No, l'ha pagato lei il suo. E gli altri? E gli altri dai fondi del gruppo, vendendo gli archi compositi. Esatto. Ma direi che non c'è il suo corpo, no? No, è andato via. Ha tra il gol. Se voi volete, la ruoliamo, perché io ho una mia idea su questo. Sì, ruolate, esatto. Quindi io mi sveglio? No, calma, calma. Okay. Bene, dobbiamo riportare. Tu sei tu in tutto questo? E talmente sfinito e sconfitto dalla battaglia contro il Nightshade e il divoratore, che quel giorno lì ha deciso di riposare nella sua magione tutto il giorno. Diciamo che avevo qualche... Ora che allora ripresa... ragazzi arriva bello che presto. Si dice qua. Purtroppo mentre tu dormivi nelle stanze che ti ho era offerto, molto comodo. Sì, una nostra compagna ci ha lasciato, come puoi vedere dal cadavere disteso lì. E adesso? Quello dissanguato. Tuttavia il saggio Bilaxar, tu sei morta. Sì, ma no, perché non sapevo dove guardare. Bilaxar non è più da voi, comunque. Ah. Cioè, se dentro, è nato nella sala del trono, vi lascia lì per ora. Ah, hai trovato Bilaxar? Bilaxar, sì. Sì, abbiamo sconfitto il boss. Abbiamo distrutto il demone che dominava questa regione e riportato Bilaxar al dominio del suo castello, ottenendone ovviamente questa sdratite. E tiro fuori questo sassone. Ah, perché, cosa importante, abbiamo trovato questo cristallone gigante che ci ha dato Bilaxar. Di Bilaxar. Tecnicamente lui non vi ha detto che ve l'avrebbe data, ha detto che c'era lì, ha detto che il premio. No, ha detto che potevamo tenerla per noi. Se la trovavate prima. È un sassone di... Ma quindi se fosse mettere tipo prima del sassone, avrebbe detto grazie a qualsiasi cosa. Eh sì, però non l'avete fatto. Vabbè. Guardate, fratti, andare da boss. Io. Vabbè, abbiamo incontrato il tuo più serio. No, la strada che abbiamo fatto ci ha portati al boss. Come vabbè, poteva sì. Portarci alla tesoreria? Era anche so. Ok, un po' di soldi. E quindi cosa avete trovato? Abbiamo trovato questa sdratite molto raffinata. E sarà sufficiente per far ripartire? Sì, sicuramente. Sicuramente. Inoltre, abbiamo acquistato questo unguento per riportare alla vita la nostra amica Eleni. Scusate, ah, giusto, Eleni. Ora abbiamo deciso cosa fare con l'altro guardiano caduto. A Tralgol deve restare morto. Perché ha fin troppo sofferto e la vita non potrebbe che donargli altro male. Beh, io so benissimo che cosa significa. È vero, perché lui non lo sa, cioè, però l'avresti visto. Sai che quando muori, no, come è successo a Ilaber, cioè, vedi sì. La vita di quello che è morto. In pratica... Voi avete visto la vita di... Esatto, sì, anche tu, okay. Perché tu eri lì. No? Hai visto che in pratica lui originariamente non era un alleato della Dro, ma diciamo faceva parte di una task force che era stata organizzata per ucciderla e fermarla. Tuttavia... Lei è andato male, sono morti tutti, ma lui è stato catturato, diciamo è stato piegato al volere della Dro attraverso tortura e favori sessuali. No, più che altro lo obbligava anche a mangiarsi parti del suo corpo che poi lei rigenerava, no? Con la magia. Con la magia. Alla fine lui è diventato un suo servo e questo è quanto. Cioè. E forse però se lo avesse vita potrebbe essere... Una sorta, diciamo, come è stato detto l'altra volta di... Theon Greyjoy, no? Che diventa un Rick, no? Ecco. Non sarebbe mai libero. So bene che cosa vuol dire spezzare una volontà. Sono la quarta stagione. Io stesso ho compiuto di questo. Spoiler per avere tutti quelli. Sì, esatto. Cazzi vostri, vabbè, minchia, cazzi suoi. Old. Ormai sono già spoilerato internet. Volta, cioè. Vabbè, era ora che ho compiuto lo spoiler. Tu sei la seconda stagione, forse. Ragazzi. Comunque, dai. Io la quinta l'ho visto, non so se c'è qualcosa che ho spesa. No. Ah, ok. Però hai visto che lui lo piega su volere. Stavo segnando le cose. Esatto. Burattino. Okay. Va bene, stavamo dicendo che a Tralgol non tornerà mai libero, quindi... Dicevo che io stesso so cosa vuol dire spezzare una volontà e ho compiuto di queste nefandezze e non lascerò che al mio cospetto se ne reiterino delle altre. Cos'è questa una bontà? Ti sei forse rammollito? No. È soltanto una valutazione... di sofferenza da imporre ad altri per il nostro vantaggio. Sì, non c'è stato di alcuna utilità tra il gol, quindi non vedo perché infliggere sofferenza. Beh, è stato di grande utilità invece. Perché è morto al posto nostro? Esatto. Non hai tutti i torti. Potrebbe esserci. Tuttavia rimango della mia opinione. Se volete utilizzare l'unguento, mi opporrò. Beh, direi di mettere i voti. Alla fine l'abbiamo chiuso tutti. Mettetela ai voti, allora. Io non lascerò che questo povero infame ritorni alla sua sofferenza. Non so se avete visto, la sua volontà è stata spezzata e piegata per sempre. Beh, se un vero guerriero potrebbe riuscire comunque a ritornare. Sciocchezze. Sciocchezze, si vede che non ha esperienza di queste cose. No, perché la mia volontà è indomita di ferro. E nessuno può piegarmi. Non mi ha piegato l'impero di Smeraldo e non mi piegherò ancora. Tante belle parole, ma dipendete da uno che ricorda magari nelle lune, esatto. Dall'impero di Smeraldo. Dall'impero di Smeraldo. Ma sì, per quello che mi importa di lui, se ti fissi così tanto, va bene. Mi fisso. Beh, è tutto un piano malvagio in realtà per tornare, visto che poi Smeraldo distrutti. Se tornerà come demone, come spirito, lo distruggeremo come abbiamo distrutto i Laberton. Ma almeno doneremo pace alla sua esistenza. E chi donerà pace alla nostra esistenza dopo che la cannibale ce lo rinfaccerà? Sono sicuro che la cannibale non darà problemi. E se darà problemi ci parlerò io. Beh, può sempre comprarlo lei l'unguento. Esatto, quello potrebbe essere l'idea. E io offro. Faremo al doppio il prezzo. Alla fine è lui che ti comanda, no? Può sempre comprarlo lei se accede a questo flauto. Cosa che mi guarderò bene dal farle fare. Oppure se ruba il nostro, ma altrettanto mi opporrò. Bene, ma allora faremo scegliere il capitano della nave, forse è la scelta migliore, visto che fa parte del suo equipaggio. Cosa vuoi che gliene freghi? Contro un ordine diretto di un Kaishak, non oserò replicare. Ci credo, non lo farebbe nessuno. Mister non si piega. Esatto, signor non ti pieghi. All'impero di Smeraldo, di un generale dell'impero di Smeraldo, ex, che stiamo parlando. Non hai idea di quanti soldati di Smeraldo ho ucciso io, caro mio. Anche lui ne ha uccisi. Sì. Non hai idea di quanti confronti per questo. Non hai idea di quanti barbari Suli ha ucciso lui. Alla fine anche Junkai Shek combatte per un ideale contro l'impero, quindi perché non tenerlo come alleato per il momento? Beh, non lo sai. A dire il vero, quello che sapete voi è che lui combatte contro l'impero perché voleva ottenere lui il potere. Vabbè. La magari non mi darebbe fastidio. No. Alla fine, cioè. Beh, dipende. Se lui vuole contenere, se lui vuole solo tenere il potere e mantenere la struttura, magari sì, perché cioè. Sarebbe soltanto un cambiamento. Non cambia niente. È un ragionamento un po' complesso, però. Sì, è vero, per Bacca forse. Cambio potevo dire cambia le cose. Esatto. Vita morta, gli dice la finestra che entro le zanzare. Per quanto riguarda invece Eleni, possiamo cospargerla di questo unguento. Chi lo fa? E come si fa? Si cosparge, basta. Beh, tu sei, mi sembri più esperto di magia. Va bene. Queste cose io non mi fido. No, credo. No. Vabbè, di queste cose io non mi fido molto, lo sai. Prendiamo l'unguento e iniziamo a fare massicce. Preferisco non toccare il corpo di questa donna. Perché? Vabbè. Hai particolari credenze? No. Semplicemente sono legato ad una persona. E non voglio deturpare quel ricordo. Ah, qualcuno c'ha il cuore. Il l'unguento deve essere, non so se lo sapete, ma l'unguento deve essere cosparso dappertutto. Io non tocco quegli oggetti magici. Me lo sono inventato, però mi piace. Io non tocco quegli oggetti magici, sono pericolosi, lo sapevo bene. Chi si fa avanti? Beh, tu sei una donna, forza. Io lo posso fare io. Corvo. Puoi fare tu. Anyway, posso benissimo farlo, non ho nessun problema. Non vedevi l'ora, nano. Tu sei un monaco, dovresti avere un certo castità. Non so se. Vabbè, ho capito, lo faccio io. Tanto ho visto cose peggiori. Anzi, lei è molto carina. Andiamo avanti. Domani devi andare all'università. Non so perché. E perché se mi porti tu, se no mi si sveglia per tutta la notte. E va bene, ti porto io al massimo. Però non so più avanti. Ok, quindi in mente io trovo quando ho fatto The Dark Age Craft XX. Bello quello che mi chiamato. Che c'è il video che gli dice: papà, no, sbaglio che cambi su. Aspetta, non l'hai visto? No, allora lo spoilerai. Ma è nuovo? Io non l'ho visto. Nel mio sito Fragi 6 per qualche ragione. Ah, ok, non abuso. Se sei grande, taglia grande. Tua mamma. Taglia piccola. Sono documenti tipo. Vabbè. Non sono messaggi d'amore, non preoccuparti. Strano. Da mio padre. Okay. Siamo pronti, forza! Quindi chi lo spargi, chi la cospargi con l'unguento in modo. Oh, io! Ma chi sono? Massaggio sexy. Esatto. Troppi bronzi. Il cadavere. Il cadavere. Tra l'altro c'è un po' di necrofilia e zoofilia. Esatto, perché poi muta diventa. Lei è un corvo, poi muta diventa un gnomo. Aspetta, è necrolesbozofilia. Tipo, esatto. Non è censurata questa parola, secondo voi? Non credo. Bene. Questo che non esiste. Ragazzi, quando è un finito, cazzo di unguento per farla resuscitare. Quando hai finito di cospargere di unguento tutto il suo corpo, si illumina e comincia a restringersi. Cosa hai fatto? Te l'ho detto, è una stagione di malvagia. e lei diventa un ognomo, un ognometto. Ma con le stesse sembianze? No, è un ognometto. Con le sembianze? Vabbè, vagamente c'ha gli zigomi, okay, dello sì, stesso, esatto, taglio di reni. È leggermente riconoscibile la sua faccia. Ma... Ed è blu? No. E posso, cavolo, avere sempre i capelli di fuoco? Se no potevo dire, ah, Avatar! No, ovviamente no. Ma no, deve essere una cosa figa. Vabbè, i capelli blu. Per riflesso, perché Simone è il tuo ragazzo, quindi no. Bentornata. Però io sono di fuoco, ho le braccia di fuoco. Ora non farci perdere altro tempo, alzati. Mi alzo. In realtà, sì, tipo, mi guardo. Ti alzi, sei un po' spaesato. Esatto, perché non ti sembra di esserti alzata. Esatto, non mi sembra di esserti alzata io. Cos'è successo? Niente. Già ti è andata bene così. A naspo, tipo. Temo che tu ti sia rimpicciolita. Mi guardo e tiro un urlo, tipo. Meglio un metro che... Meglio essere alto un metro che 20 centimetri steso per terra. Così. Meglio essere alto un metro che io penso di te. Bravo. Badum, bravo. Vabbè, insomma, gli spieghiamo, okay, la situazione. Vi ringrazio per bla bla bla, Lesbo, figurati, hai pagato tu. Giustamente. Insomma. No, vabbè, infatti magari meglio che ce lo dividiamo poi, perché non ha senso. Che paga chi muore, cioè, se no chi è davanti muore più spesso. Non ha senso. Ma poi anyway, e ora cosa facciamo? Non credo che Bilaxar gradirebbe che girovaghiamo... Nelle sue terre. Beh, dopo tutto. No, nel suo albero a rubacchiare. Nel suo albero, esatto. Beh, abbiamo tutta la nostra missione, forse abbiamo tornato alla nave, il sì, tempo stringe. Sì, Jung sarà abbastanza soddisfatto. Torniamo dal nostro capitano. Del nostro risultato. Vabbè, ci incamminiamo. Non preoccupati, come voglio io della morte. Non c'è bisogno, magari anche lei ha rivisto la sua vita. Vabbè, può essere. Visto che eravate comunque legati. Speriamo di non incontrare quella donna blu. Non tu, Eleni. Non sono più blu. No, mi riferisco a quella generale diabolico, okay, che ha sottratto il corpo. È andato via diverso tempo fa ormai. Oh. E sì, sembrava una certa fretta, forse. Sarà un po' al Bilax, se torna, quindi. Sì. Ok, allora mettiamoci in marcia. Teliamo. Vi mettete in marcia e nel giro. Quanto di stava? Un po'. Comunque, tre giorni. Nel giro di 3 giorni tornate alla nave. Non sembra nulla essere, sembra essere mutato. Non sembra aver subito attacchi, o quantomeno se ne ha subiti non particolarmente devastanti. In ogni caso sembra aver fronteggiato. Ah, perfetto. E c'era Jung. Quando salite a bordo sono ancora tutti in vita. Nessuno è morto. Beh, la Gro non sembra dire niente di particolare riguardo all'assenza di Atral Gol. Ah. Né vi interroga particolarmente. Jung e Shek, immaginavo. Aspetta, ma io non mi ricordo, alla fine voi non avete visto tutta la sua vita perché la sua anima comunque era... non ce l'hai mostrata. Ma no, perché... Cioè, lei comunque... La vita di... Cioè, per come è morta, cioè, in teoria non doveva neanche essere resuscitabile con reincarnazione. Però siccome non c'è altro metodo oltre reincarnazione per resuscitare in questo mondo, certo, facciamo di sì. Certo, no. Però comunque lei non era proprio morta, cioè aveva... Infatti lei era un vampirello. Infatti noi quindi no, abbiamo visto la sua vita. No. No, quindi più che altro loro non sanno che lei è morta. Perché adesso vedremo che è l'uomo nuovo. Ma scusa, perché? In realtà io non ero proprio morta. Ma lo vedono tutti la morte. Il flash. Adesso lo scoprirò. Okay. Solo che avrebbero dovuto portarmi in mare, capito? Roba del genere. Così. Ad avvicinarsi a voi per primo è uno dei due nani. Uno dei due Forgebrand. Quello col braccio in più? Quello col braccio in più, sì. Okay. Ma che po' dal petto. Ah, allora, piacere. La visione. Di rivederla. Sì, piacere, ti dà il terzo braccio. Ok. Non capisco se si sta prendendo un gioco di me. Comunque. Sì. Beh, non terrò niente. Dicevo. È evidente allora che la visione che abbiamo visto tutti quanti diceva il vero. Il Drow è morto, non è tra voi. L'hanno visto. Dico bene? Che occhio di fatto. Esatto. Sembra che la Sratite abbia creato una... Ho solo chiesto conferma a Bamboccia. L'avete visto peccato tutti da queste parti? Il nostro amico col terzo braccio. Esatto, Ciccia, non prendetela con mio fratello. Che qua siamo in due. Posso beccarlo sulla testa? E 5 braccia. Esatto, 2 e 5 braccia. Mi hai tolto le parole di bocca, fratello nano. Siamo in 3 con 7 braccia. Esatto, quindi 3 con 7 braccia. La Sratite sembra aver creato una connessione tra... Il malformato ha ragione di tutti. Aspetta, l'Alfin invece si avvicina e fa così. Ma chi diavolo è questa? Ah, lei è Eleni. Me la ricordavo un po' più alta. Ti sei alzato tu. Anche lei ha perso la vita. Ed è stata riportata. E come mai non abbiamo visto? Ora che mi ci fai pensare è bizzarro. Probabilmente dipende dal fatto, come è morta, la modalità con cui ci ha lasciati, cioè è stata trasformata in un vampiro. La Azalea, la Drow, dice: è interessante comunque notare che a quanto pare la distanza non influisce molto sulla infatti, distanza a cui infatti è possibile vedere le vite dei morti. Sdratite, mi domando se sia un effetto che vediamo soltanto su di noi, che siamo giunti qua tutti assieme, o se sia una cosa che si può vedere anche di altre creature che muoiono in questa landa. Sono più portato a pensare tra di noi, il fatto che sia tra di noi. Avremmo viste delle anche perché non abbiamo visto qualcuno a casa. Per esempio, avremmo visto il non morto che abbiamo ucciso, a meno che i non morti non ne siano esenti. Beh, non è che c'è altri non morti, ma proprio che i non morti probabilmente ne sono esenti. Esatto, sì. Comunque. Però oddio, non proprio, visto che se non se ne esente. Infatti. No, in realtà no, però no, esatto, i non morti non ne sono esenti. No. Lo sai con la prova di conoscenza che avevi fatto. Ok. Però, cioè, nel senso, voi non avete visto i vari non morti che avete ucciso. Infatti. E comunque sembra strano che non sia morto nessuno in queste Esatto. Voi come siete passati in questo periodo? Comunque, ecco la sgatite. Questa la prendo io, ovviamente, a parlare è Junk e Shek. Ok. D'ora in poi ci sarà un nuovo addetto di guarda alla sdratite, visto che qua abbiamo un traditore tra di noi che purtroppo non siamo ancora riusciti a identificare. E chi sarebbe il nuovo addetto? Dovrei offrirmi io volontari, se possibile. Sì, mi sarebbe più che adeguato, Baka. Garantisco io per Baka. Da adesso somma più 3 ai danni. Ed è un ottimo, ed è bravissimo interrogare la gente. Esatto, tra l'altro è molto influente subito. Esatto. Che inoltre sei in grado di convincere bene gli altri membri dell'equipaggio, bravo Baka. Ho una certa influenza. Esatto. E ciù. Mazza bene. Mazza! Ho una certa influenza e ciù. Hai ucciso la zanzara. La tagliamo questa pezzo magari. No, vabbè, è bello la zanzara. Ah, e ciù, non ti è piaciuta? Era bella. A me piace. Io tipo i 16 iscritti si iscriveranno. Si iscrivono subito. Io, Adesso sono arrivati già 15. È il senso dell'umorismo di Abraham, non è mica il mio. Ma non è iscritto? No. Diventalo, ma andiamo. Poi solo facciamo il live in diretta. Che ci impegnano anche. Perché no, ragazzi, questo bisogna lasciarlo tutto. Perché... Ovvio, cioè, ma a parte della cosa. La cazzoneria. Comunque... Bene, allora possiamo riprendere il viaggio, sciocchini. Oh, Maria, aspetta. Ah, questo qui è Istral. Esatto. Sì, a parte che tu stia molto lontano dalla sgratite. E da noi. Ma se ero con voi quando... Non mi interessa, sei un sospettato. In prigione. Nella piramide di ferro. E volevate pure darmi al diavolo. Esatto. Era di vetro la piramide. Sì, ho sbagliato a parlare, Ciccio. Non ti capita mai? Sì, magari ti avessi preso il diavolo. Chissà cosa può darmi per la tua anima. Tenetelo fermo. Vado, non dire tenetelo fermo a Istra, che ci prova. Guarda, no, tenetelo. Un po' effeminata, però. C'è un po' di intimidire. Non so come si faccia. Faccio un po' di intimidire. Vediamo che sono... 7 più... Aspetta. Più influenza. 30. Ah, 23 sommi? Grande. Perché l'intimidire sono anche la forza. Cioè, tu sommi adesso 23 a influence? Sì. Qui sei veramente un face della Madonna. Grande. E se ne va. Scorpio. Bene. Direi di metterci in viaggio quando il capitano lo dirà. Sì. Sono curioso. Se è stata riportata in vita Eleni, perché non è stato riportato in vita anche Atra al Gol? Questo chi è che parla? È Junk e Shek. Lo chiedo al nostro amico Abraham. Si è opposto con tutte le sue forze. Mi sono opposto con tutte le mie forze, capitano, perché la volontà di Atra al Gol era stata spezzata definitivamente. Ho ritenuto che non fosse opportuno infliggergli altre sofferenze. Quanto la fai lunga, dice Azalea. La guarda e non rispondo. Questa è la mia forse penso se vuole la mia valutazione. Tra il gol non ha portato nessun altro vantaggio che prendere le botte che sarebbero state dovute ad altri. Certo, un vantaggio, come mi fa notare il mio amico nano, ma un vantaggio sostituibile con un'evocazione. O un altro dei nostri compagni. Mi fido del tuo parere. Scelga lei, capitano. Abbiamo... Può essere utile per l'emersione della Se ritiene che non fosse utile da spendere 1000 monete d'oro per lui, ritengo allora che siamo d'accordo. Il prezzo da pagare sia troppo elevato. Oltre che avere i miei motivi personali. Non si fida. Non abbiamo lottato il suo cadavere. Ma abbiamo lottato il suo cadavere. È sparito. Cioè, sparisce il cadavere. Altrimenti quando arriva come non morto, si può lottare. Esatto. Tuttavia, capitano potrebbe ricomparire come ha immaginato. Abraham, ti ricordo che abbiamo un accordo sulla spada mia. Non ti preoccupare, Baka, riparerò la tua spada appena avrò un momento per studiare queste pergamene. Se tu lo volevi resuscitare solo per prendergli la falcata. No. Cioè, volevi resuscitarlo per prendergli la falcata e ucciderlo? Ho detto questo. O vuoi lasciarlo abbandonarlo nel deserto? Probabilmente l'avrei venduto in cambio di qualche cosa al diavolo, no? L'avresti venduto? L'avresti venduto a Tralgol, figlia poverino, non ha sofferto abbastanza. Scusa, adesso un controllo continuare. I codici giocatori non fanno così? Tu sei caotico malvagio? Sì, lui è caotico malvagio. Ok, puoi fare tutto. Io mi avvicino a lui e gli faccio così sulla gamba. Sì, cosa vuoi? Volevo ringraziarti per avermi salvato insieme agli altri. Sono d'accordo anche io su Tralgol. Bene. Brava! Cioè... gli allungo, stavolta tipo abbasso la mano perché ero convinta di poter accarezzare il corpo. Ti vola in testa e tu non ci arrivi. No, cioè... sei bassa, sei bassa. Dopo un'ora di preparativi in cui vengono riallestite le varie quello che c'è da vestire per far partire una nave, il viaggio state riprende bene. E riprende la stessa direzione in cui era cominciato, ovvero seguendo la rotta che vi era stata indicata. La stella, esatto, la stella, anche se è giorno sapete comunque dove è. Dormendo per nato. Avanzate per una settimana. Fatemi una prova di natura. Ciao. Natura cos'è adesso? Survival. A seconda di cosa avete più alto. Ah, io non c'ho niente. 23. Ma poi survival sì, no. Ah, tirato 20? 23, sì. Grande, fatto 23. Hai fatto 19. No, no, hai detto survival? Sì, survival o nature. Aspetta, non ce l'abbiamo. Vabbè, survival. Cioè, ce l'abbiamo di classe, però. Survival lo puoi io usare. Io ce l'ho di classe. Posso andare? Facciamo di 20 e basta. Dovete scegliere quale tiro fare. Cioè, in base al modificatore più alto, non è che fate due tiri. 10, 16. Ma guarda, uno wisdom che ho meno 1. L'altro ho meno 2. 16. Damasco, tu ce l'hai di classe? 12. Sì, lo faccio? Sì, sì. Quello col modificatore più alto. Se sommi tanto, sì. 14. Hai fatto in tutto 14? No, ho fatto 10. Ah. Più 4 di. In tutto 14. Ok, lei ha fatto di più e lei ne ha fatto di più. però. Cioè, che Istra, che ha un altro survival. Bravo. E Yuka c'è che non tira. No, non ha altro survival. Se lo lasci nel deserto si perde e muore subito. Ok. Lasciamo. Allora, tu non ti accorgi. Ho fatto 20. Di niente. Una mattina, però, Istra viene da te. No, visto che tu facevi tanto sapientone con lui. Sì. Fa così. Cosa vuoi? Non hai notato niente di interessante? Hanno avuto taglio di capelli. Io noto molte cose. Istral Sesin. Sesin. A quanto pare non cominciare dalla tua camminata. Ci stiamo abbassando. Non è vero. In che senso abbassando? Tu ti abbassi continuamente, scommetto. Troppo facile. Troppo facile questa era il terreno è in pendenza, non te ne sei accorto? Capisco che non sei un abile osservatore del deserto come lo sono io. Vabbè, fammi controllare. Posso fare un'altra prova ora che me l'ha detto? Sì, sì. Cos'è quello rosso? Ho fatto 23. La pendenza è molto leggera, però sì. Effettivamente ammetto che tu abbia ragione. E non è strano che questa pendenza ci sia a tutte le latitudini, come si può vedere? Cioè, nel senso... Cioè, sia davanti che... No, nel senso, cioè, si estende per tutto. Cioè, una discesa. Esatto, un super discesone. Un discesone, però molto leggero, molto poco sì, pronunciato. Molto leggero. Sì, è abbastanza strano. Quindi... E non è la sola cosa, osservatore. Smettila di sfottermi e dimmi cosa hai visto, Istrasesi. Noi non ci siamo, immagino, no? Tranquillo. Le giornate si stanno accorciando. Ah. 20 minuti in meno, circa, ad occhio. Da quando, scusa? Da quando siamo partiti. Ah. Noi dove siamo? Noi altri, scusami. La nostra missione. Sì. Tu sei a guardare la Sratite. Io cosa facevo? Al mozzo. Okay. Tu sei dando l'ennesima lotta tra i due nani. Il mio compagno di... tu sei da solo. La polizia è morto. Sì, esatto. Sì. Adesso pulisci la vorrei fare il lavoro per due. È andata così. Non l'ho potuto suscitare, cazzo. Posso fare una prova per trarre le conclusioni? Sì. Sempre natural, ovviamente. Oh, 20, ho fatto 20, 23. 33, scusa. Boh, non avresti proprio idea di quale fenomeno potrebbe dar luogo. Anche con a quale causa potrebbe dare luogo. Non ho proprio idea. Genere. Non so se tu, sapientone, hai qualche idea. No, è venuto da te per sapere il tuo parere, in effetti. Vabbè, però vedo che siamo intelligenti uguali. Sì. Da questo punto di vista. Sì, mi disgusta, ma sì. Vabbè, tu non ti abbassi. Buona giornata col motore. Grazie. Mi rimbocco le maniche e mi tuffo nella sdratite. Continuando a pensare turbato questa cosa. Ti stanno accorciando. Se il paesaggio intorno a voi inizialmente è sempre quello delle lame, no? Che escono dal deserto. Certo. Lentamente queste lame iniziano a scomparire. No? Mm. Finché a un certo punto non notate un enorme, cioè non un enorme, sì beh, di un centinaio di metri di diametro, un buco di una centinaia di metri di diametro. Un buco! Sì, non davanti a voi. Ah. Di lato. Alla nostra destra, metti. C'è un bucone. Sì. Ma tipo gorgo? Tipo vortice? Fatemi una prova di perception. Ok. Mi raccomando, 18. 14 più 18? Un sacco. 17. Senti? 26. In lontananza può venire dal buco un ronzio. Un ronzio tipo animale o un ronzio meccanico? Tipo animale. Tipo no, uno sciame. No, no, insetti. No. Perché? E questo c'è. Sul cazzo di deserto non ci sono gli insetti che fanno zzzz. Beh, ma sono dentro il buco tanto. No. Vuoi andare dentro il buco? Ma che no. Inoltre, osservandolo, nonostante lo schifo, noti che pratica questo buco ha di sotto i dentoni, come quel buco di Jabba the Hutt. Ah, bellissimo. Nel ritorno dello Jedi. Ah. Ci avevo pensato subito, ho detto un buco nel deserto. Io ho pensato a quello a... Quelli che vengono ingeriti e masticati per decenni. Esatto. Ok. Do l'allarme. Vabbè. Stiamo lontani da quell'affare. Non siamo nella sua orbita? No. Stiamo lontani da quell'affare. Guerinberg, la rotta? Ah, giusto. Sì, tranquilli, non ci passiamo vicino a quel coso schifoso. Che cazzo fai a vedere da lì sotto? Ah, ci vedo benissimo, corvo. Damasco, hai visto se si sposta quello? Non lo so, Che si sposta? Anzi, ho un'ottima visuale, cioè, questo, certe cose da questa altezza. Cioè, immagino sia completamente fisso. Stai guardando il culo di chi? Io so. No! Io sono... Io mi guardo la mia gente. Guardo Mistral. Mistral, sì. Ragazzi, per favore. Sta diventando un yaoi sto coso. Guardo il vedo se si sta, se si muove, se si muove come mi ha chiesto lui. Questo buco si devo muove. Fare un'altra prova. Ah, no, non si muove, okay. Sta fermo lì. Mm. Però mentre avanzate questi buchi iniziano a aumentare, cioè inizia a essere tanti. Ah, ci sono più buchi. Sì. Quando ero avanzato tipo 2-3 giorni dopo il viaggio, attorno a voi c'è inizialmente c'è davvero tanti, tipo qualche a vista riuscite a vederne anche una decina. È difficile schivarli. Anche io riesco a vederli. Le giornate evitare tranquillamente, se non sembrano, diciamo, a tirare la nave dentro un gorgo. Certo. Cioè sono... Le giornate si sono ulteriormente accorciate. Man mano che avanzate, hai deciso di tenere il conto di quanto si accorciassero le giornate. Sì, si sono accorciati di un altro minuto, altri 2 minuti. Ah, così poco. Sì, si accorciamo. Ma io riesco a vederli o devo essere sollevato? Siete avanzati 3 giorni, siete avanzati settimane. Quindi. Certo. E la pendenza, beh, non sai dire se sia aumentata o no, però... Non è di certo diminuito. Avvertiamo il capo? Sì, diciamo. Esatto, qualcuno. Diciamo tutto qualcuno mi dice qualcosa che sono dentro la sala. Capitano. Evidentemente. Vabbè, sono solo con la chiesa, poi dentro ancora. Evidentemente, queste non sono altro che le insidie a cui si riferiva Arin. Quando. Chi? Arin è. Il nostro. È il vecchio. Sì. Quello che. Beh, per ora non sembrano così insidiose. Per fortuna no. Speriamo che quegli insetti non escano dalle buche. Ecco, cambiare un po' rotta. Purtroppo questa dobbiamo seguire. Non abbiamo molta scelta. O torniamo indietro. Ma non abbiamo nessuna garanzia che dirigendoci ai lati di questa rotta di trovare qualcosa di diverso. La stella indica questa direzione. Non so perché ogni volta che diciamo la stella mi viene in mente la musichetta di di Edoardo Bennato, però vabbè. Con la stella. Sempre. Quindi me lo vedo arrivare lì nel deserto. Vabbè, fa niente. Come distruggere il fatto? Far entrare il Bennato con una lira. Esatto. Che canta con una c'è. Tra i buchi. Esatto. Facciamolo anche divorare tranquillamente. Cioè, si riesce a vedere dentro questi buchi. Si vede che animali ci sono dentro? Sì, allora, vespe, mosche, larve. Sì, allora, perché non per il cazzo? Larve? Cioè, ci passiamo talmente vicino da vedere. Ma questi buchi si vede si vede se hanno in fondo? Signori? Non sei così vicino da dirlo. Ok. Capitano? Puoi controllare. Entra sabbia? Per buttarci dentro qualcuno. Sembra che entri sabbia in questo buchi. No. Ok. Qua, che ne dite, signori, di fare un sopralluogo. Cioè, magari ogni tanto, ma è abbastanza statico. I bicchieri non mancano. Ma forse potreste evocare qualche creatura alata e mandarla a vedere. Sì. È una buona idea. Sì, sì, sì, non sì. Mi avvicino a quella fare dei. Però potremmo. Potremmo fare ci un credo. Sopralluogo dall'alto. Ci credo. Potremmo volare. Le persone che volano. Manda solo, ma a vedere. Cosa? No, no, tu no, che no. Voli potresti, ad esempio. Voi tutti volate, l'ho fatto solo per questo. Tappo. Fly di massa su tutti. Io sto dentro la falla guardia e sto volando. Dai, adesso volate se volete. Io sto volando dentro la cosa. Ora non avete più scuse. Ma vabbè. Forse andiamo. Era meglio evocare qualcosa di un po' più inutile rispetto a rischiare noi le nostre vite. Che cazzo avete da guardare? E apro il bestiario. Cioè, ne vado proprio così poi. Cioè, ne vado per le bustine. Per noi apri il bestiario mentre noi ci mettiamo a volare. A parlare, immagino, mi sembra. Con la coda dell'occhio ci siamo girati tremanti proprio. Allora che ne dite di fare un sopralluogo? Ma forse mandiamo prima i tuoi angioletti. Non, non vedo perché li dobbiamo mandare tutti. Va bene, allora se volete manderò i miei bralani. E muoviti. Signor ma anche un passerotto. Come si è rivolto a me, scusa. O il tuo corvo. Muoviti. Cos'è che hai detto? Un passerotto. Muoviti. Parola magica? Per favore. No. Muoviti. È Ochnaira Snairas. Dovresti mandare il tuo corvo piuttosto che sprecare sì, incantesimi. Ci ho pensato, va bene. Oh, Sodoma. Sodoma. Di Sodoma. Vai molto in alto. Da 200 piedi dal suolo. Andiamo a secondo me. Vede qualcosa, fa una prova di perception. Vede sopra. Allora, quando è sopra il buco, uno sciame di insetti esce fuori e lo attacca. Vabbè, lo attacca 200 piedi dal suolo. Si fa per attaccarlo, cioè si muove verso di lui, va bene. Ok, torna da me. Non so perché ho... E ce li attira contro? No, appena si allontana abbastanza velocemente dal buco, ha oltre un certo diametro gli insetti tornano indietro. Visto che non è una buona idea avvicinarsi. Ok, Sodoma tipo atterra sulla mia spalla quasi slogandomela. Insetti, io me li mangio, io me li mangio, ma non così tanti, indigestione. E il nostro stratega voleva mangiarci tutti volando, idea. Si vede che non ha esperienza di battaglia. Sì. Io vincello. Sodoma, cosa hai visto? Ho visto quello che avete visto voi. Il buco alla fine? Alla fine. Non ci ha fatto molto caso. Non ci ha fatto caso, ero occupato a scappare. Io consiglio una cosa, non so se siano quelle cose, ma più ci stiamo lontano meglio è. Quindi evitiamo di esplorazioni inutili e continuiamo il nostro viaggio. Sembravano normali insetti, ma questa natura aggressiva. Infatti è molto particolare. Poi hanno una notevole vista e notevoli sensi, visto che Sodoma volava più di 200 piedi da solo. Chissà perché si sono... Ma scusa, gli insetti sono dentro la buca e noi non li vediamo normalmente? Oppure ronzano un po' sopra? Ronzano un po' sopra anche. Ok. Ma una cosa. Sono insetti giganti o sono insetti? Sono grandi normali? O piccoli? No, sono piccoli. Ok. Normali. Va bene, allora mosche, veste normali. Veste, moschine così. Ecco, fanno non che è che peggio. Ci attaccano un problema. Sono peggio. Beh, insomma. Proseguiamo allora. Beh, potrebbe ferirmi uno sciame di vespe giganti. No. Limitiamoci a tenerci lontani. Direi sì. Sì, sì, proseguiamo. Io torno alla mia sgatite. Tagli un po' di te. Ok. Che finora non è successo niente. E allora riprendiamo il nostro cammino, immagino. Va bene. Sono ancora turbato da... Da quel muoviti. No, dal fatto che abbiamo un traditore tra noi. Che per ora non sembra essersi morto. Può essere morto. Esatto. Potrebbe essere a Tralgol, cioè. Ma... Tuttavia, se era Tralgol, ne convenite che a Tralgol non aveva una volontà sua propria. E quindi come ne ha portato? E quindi... Sarà sicuramente qualcun altro. Sarebbe Azalea. Beh, se vuoi buttiamo. Diciamo che siamo a cena. Sì. Stiamo dicendo mentre sono a cena c'è un cambio guardia, che io sappia. No, mentre siamo a cena. Io sono l'unica controlliamo guardia. Che la tipa non ci faccia mangiare polizio. La sua carne. No, lui fa adesso fa la guardia la sua tipa. Ah, ok. Grazie. Cioè, penso c'è la guardia non lasci. Fa la guardia lo stesso Jung quando questa parla. Torta è buonissima. È vero, è buonissima. Però l'ha fatta Damasco, non l'ha fatta Azalea questa volta. Buona. Non capisco perché nessuno apprezza le milotte culinarie. Si urlano sempre. Io l'ho apprezzato moltissimo. Cos'è che hai detto? Urlano sempre quando cucino io. Urlano sempre. Contengono un sacco di proteine. Voglio sapere. Non capisco perché non mi piace. Tantissime. Fanno bene i muscoli. Per quello siete deboli e flaccidi. Stavo per dire una cosa che avrebbe incrementato la scena Yuri. Meno male che me la sono. Tenuta. Oddio. Lasciamo stare. Sul fatto che le pietanze di Azalea urlano. No, stavo per dire, sei brava con le pistole e sei brava in cucina. Oh madonna. Allora è da sposare. È proprio da sposare. Momento. Beh, in piacere potrebbe fare le nozze. Potrebbe fare le nozze. Sì, tipo Slash. Quante cose si imparano il giorno d'oggi. Bene, dunque siamo a cena. Dopo la cena... No, parliamo un po' no? No, volete parlare, continuate, ma... Beh, secondo te... Andate a dormire. Secondo te ma Jung, Jung dov'è? La scena la guardia al posto la mio. La guardia al posto suo. Ah, figo. Solo Jung e Sheik può sostituire a fare la guardia. Va bene, io... Adesso ho finito. Devo andare. Resta ancora un attimo, Abraham. Cosa vuoi, Baka? Dovrei farti una domanda. Ah, sì, posso... Provare, posso aver provato a imparare quello spell? No, non è proprio quello, però fa niente. Come? Leggendolo. Sai, Make World. Ah, sì, vai, no. Portable. Sì, non me lo chiedi, però ok, fallo. Ti conviene quello rosso. Ah. Adesso ti dico se ho imparato o no quello spell. E dopo lo chiedi tanta cosa, poi fa niente. Fogliati. E com'è la prova mai di secondo? La passo automaticamente, sono 25 spellcraft. Ok. Ok. Uno. Ti ho uno. No, non c'è fallimento automatico in abilità. Sì, Baka? Volevo farti una domanda riguardo una tua affermazione fatta un po' di tempo fa. Ok, mi risiedo. Hai detto che conosci bene cosa vuol dire privare di una volontà un uomo. Okay. Non sono uno che guardi i peccati degli altri, perché forse sono stato quello che ne ha commessi un po' più degli altri. Beh, Baka, se non ha approfondito lui stesso, non penso che sia una domanda cosa discreta. Cosa è diventata che... una seduta di terapia di gruppo? No, non mi sembra. Mi chiamo Avram e manipolo le altre persone. Visto che dobbiamo lavorare. Ultimamente sono passato ai corvi perché. Visto che dobbiamo lavorare spalla a spalla tutti noi, forse sarebbe meglio se ci dicessi perché ti sei opposto così tanto a una decisione, diciamo, del gruppo. Quindi siamo gli alcolisti anonimi, veramente. Non è, l'ho fatta semplicemente perché si è opposto, diciamo, alla volontà del gruppo, visto che di solito abbiamo sempre scelto in armonia. Mi chiedevo come mai. Beh, dai, non c'è una volontà del gruppo. Mi sembra nessuno era così attaccato alla vita di no, assolutamente no, di però... altro, a parte me che devo fare il doppio del mio lavoro, chiaramente. No. Però beh, a me non stava antipatico invece. Tuttavia è un guerriero nobile alla fine. Tuttavia quello che ha chiesto Baka mi sembra in parte legittimo. Se vuoi farmi una domanda... Come questo guerriero sa, sapere è potere. Quindi se anche lui... se anche lui poi condividerà la sua storia con noi... Beh, io condividerò la mia con voi. Se volete... Se farà piacere... Ok, certo. Questa è la serata attorno al falò. Dove si mangia il marshmallow, si raccontano i segreti. In realtà stiamo mangiando penso a lucidi uomini che ha sgozzato la cosa. No, è la mia torta. La mia persino io non vado fiero del mio passato. Eppure non sono certo... uno studentello. Per farla breve, io sono nato in un luogo molto distante dall'impero di Smeraldo e dal Mar Vishkania, un posto che voi non avete mai visto. Una regione geografica completamente diversa, separata dal Mar Vishkania da decine e decine di anni di cammino, di tragitto. Mar Vishkania. Invece sì, c'è un altro luogo. No, forse tu non lo sai, ma comunque... Sì, beh, perché tu sei ignorante, sei anche un Suli, quindi... Esatto. Io sono lì che... Che anche se nel Mar Vision c'è un portale noto, cioè, da varie persone, però comunque tu forse non lo sai, in effetti. Non si usa. No, si usa, cioè, nel senso, è poco usato perché si è aperto recentemente. Però ci sta che magari una persona ignorante, tribale, non lo sappia e pensi che il Mar Vision sia tutto il mondo. Ho passato l'ultima parte della vita in prigione, devo dire in prigione, non è molto molto... Esatto. Da studiare, gioco. Comunque sia, vengo dalla regione di Astaria, inventato sul momento. Nome inventato sul momento, perché bello, non mi ricordo. Bello, Astaria. Che tu sicuramente non conosci. Nel mio villaggio erano particolarmente devoti alla dea del dolore, Verikir. Ah, che un giorno si presentò a me e mi disse di recarmi nel Mar Vishkania e di sottopormi all'arresto dell'impero di Smeraldo, che io non conoscevo. Tuttavia, come ero stato educato, ho seguito fedelmente... questo ordine. Quindi tu sei venuto qua perché una che ha detto essere la dea ha detto di farti restare. Mi sembra un riassunto assolutamente completo. Le tue abilità oratorie sono incredibili, soprattutto a questa sessione. Incrementato quanto sono bravo. Diploma sul Cicerone. Esatto. Comunque sia, per farla breve, ho cominciato ovviamente, cioè ho dovuto viaggiare per arrivare al Mar di Vishkania. Al Mar Vishan. E la dea mi ha in particolare detto, sono quelli come Jung. Sì, esatto. La dea mi ha ordinato di accompagnarmi ad una donna e di percorrere quel tragitto. Mi ha detto di morire e di rinascere. Ah, quella lì è la donna che, diciamo, per quello che ne ha avuto spazio lunguento, quindi su Eleni, per quella donna lì. Sì, ma di questo preferisco non parlare. Oh, certo, i tuoi fai di cuori, ma non tuoi. Mi interessa solo sulla manipolazione degli elementi. Devo smettere di raccontare la storia. No, prego, continui pure. Non vorrei mai disturbare. Così ci siamo messi in viaggio, io e lei. E dovete sapere che nella mia regione non era nota l'abilità di reincarnarsi. E la dea mi aveva specificato che avrei dovuto morire e poi risorgere. Sicché, quando ormai eravamo vecchi e stanchi dopo 80 anni di viaggio nel deserto, perché così a lungo abbiamo viaggiato. 80 anni? Sì. E stavamo entrambi per morire. E nostro figlio ci accompagnava facendoci reggere sulle sue forti spalle, che non avevano visto altro che il deserto. Allora ho capito quello che la dea mi chiedeva. Sono salito sulla montagna. Certo. Sono salito sulla montagna, sulla catena montuosa che accompagnava il nostro cammino ormai da 30 anni, su una rupe sporgente, e lì ho modificato la memoria di mio figlio, immettendovi i miei ricordi fino ad allora. Dopodiché mi sono tolto la vita. E io sono mio figlio. Se vogliamo dire così. Ma non sono affatto mio figlio, perché come sapete la nostra personalità è data dai nostri ricordi, e quindi io sono di fatto colui che è partito dalla terra di Astaria. Oh, sì, si chiama così, di Astaria. E quindi la mente di tuo figlio dov'è? La mente di mio figlio è spezzata, distrutta, irrecuperabile. Questo intendevo quando ho detto che capisco anche la nostra cuoca quando commette atti particolarmente truci. Beh, per i suoi dei. Tu hai assolutamente ascoltato gli ordini di una dea, quindi. Beh, anche lei. Lei ascolta gli ordini del suo. Gli dei sono molto esigenti. Del Lord demoniaco. Oh, sì, certo. Cabrieri. Molto esigenti. Wow. Ovviamente da quando io sono divenuto quello che sono adesso, ho dovuto viaggiare per ulteriori 40 anni prima di giungere al Mar Vishan, e mia moglie ovviamente non ce l'ha fatta, anche soverchiata dal dolore, e questo è tutto. Ah no, scusa, ovviamente per farmi mettere in stato di arresto ho dovuto uccidere e sterminare tutti coloro che mi hanno tratto in salvo dal deserto, dei poveri contrabbandieri che passavano di lì. Ho mangiato al loro tavolo e bevuto alla loro presenza, e poi li ho distrutti al porto, quando siamo giunti al porto della città. Quindi sei proprio cattivo. E poi mi sono consegnato all'autorità dell'impero. Tutto questo perché ti ha detto una dea. Esattamente. Quindi ora conosci la mia determinazione. Sì, mi piace. È una forte forza di volontà, non è da tutti. Complimenti. Non ci sono complimenti da fare, Baka. La vita è la vita, e la mia è questa. Sì. Quanto alla tua storia, Suli? Io non ho una storia proprio come la tua. Diciamo che sono tanti vari aneddoti uno dietro l'altro, nulla di così particolare. Sono nato da autisti di strada che lavoravano per un circo, in realtà. Non mi interessa. Stringi, per favore. È arrivato uno dell'impero di Smeraldo promettendo ricchezze alla nostra famiglia, al nostro spettacolo. Dopodiché non ci avrebbe più fatta pagare le tasse e quant'altro, ci hanno buttato via tutto. Vedevo mio padre e mia madre allo stremo e ho deciso di dichiarare guerra in qualche modo all'impero di Smeraldo con le mie sole forze. Sei un tipo irascibile? Un pochino, a volte mi arrabbio. Ho capito. Quindi tu hai dichiarato guerra ad un impero perché ti facevano pagare le tasse, ho capito bene? No, perché non hanno mantenuto le loro promesse, non hanno dato la libertà alla mia famiglia. Facendoti pagare le tasse. Una cosa del genere, non diciamo capito. Che hanno usato vari strumenti. Beh, anche tu sei determinato allora. Sì, più che determinato, diciamo che mi hanno fatto tenere la gara che ho demolito per prigioni, ho ammazzato uno perché non mi aveva dato dei soldi, in realtà l'ho mutilato, gli ho staccato due braccia. Ah, ti sei reso scomodo allora. Sì, sono abbastanza ricercato, ho tre prigioni demolite alle spalle, penso. Interessante. Non sono evaso. Avevo capito che eri un tipo abbastanza pericoloso. Però dipende, in realtà, solitamente sono abbastanza socievole. Sì, è anche molto influente. Riesco a convincere bene la gente con le parole. Bene, è stato molto istruttivo, ma adesso mi ritiro e me ne vado. Beh, io torno, se qualcuno di voi non ha qualcosa da dire al riguardo. Nano? No. Uccello? Gnoma? Ehi. Uccello? Uccello? Uccello? 8 intelligenza. Cosa vuoi? No, non ce l'avevo con te. Con te giochiamo da Pascati che ti devo battere stavolta. Ci puoi provare, come al solito. Non puoi sbagliare. Giacomo è andato. Ma, Giacomo è andato. Di che per... Solo chi piega un diga. Esatto. No, basta, ma Bacca non è come Ciubecca, che non puoi battere. No. Non lo sai che non si può battere su un diga. Ma scacchi. Esatto. Perché poi ti stacca le braccia. Ti stacca le braccia. In questo caso le ali. Esatto. Giusto. Beh, la notte è lunga. Forse ci conviene riposare. Quando ti corichi, no, quando vai a dormire, hai dei sonni molto agitati la notte. Ah. Uno in particolare è molto vivido e lo ricordi la mattina seguente, come se fosse successo per davvero. Ti trovi in una stanza ben arredata, lussuosa, ricca, con un grande tavolo al centro. Un tavolo rotondo. Mi trovo in una stanza con un tavolo rotondo, ricca e arredata. Arredata, esatto. Okay. Mi sono sedute tre persone. Ah. Al tavolo, il loro discorso è confuso, non riesce a percepirne bene le parole. Tuttavia, una delle persone è una donna e la riconosci. Ah. E la riconosci subito. Non si tratta altro che della Devil Kir, che già hai incontrato. Riesce a capire questo da quello che stanno dicendo. Quello che vuoi correre è un rischio inutile, Devil Kir. Non ne vedo proprio il senso. A parlare è un uomo con una suntuosa armatura che sembra essere abbastanza infervorato nella discussione. Ok. Sono d'accordo con quanto ha da dire Yana. Senza dubbio non... No, scusa, Oberyn. Ah, Oberyn, ok. Con quanto ha da dire Oberyn. Dice l'altro. Non vedo proprio il motivo di correre un rischio del genere. E va bene, come volete... Dice Devil Kir. Se ti preoccupa così tanto la mia linea d'azione, vorrà dire che... No. Mia linea d'azione. Vorrà dire che non la metterò in pratica. Dice. Posso fare sensitive? No, abbiamo solo. Ok. È molto confuso. Cioè, parti di un discorso. Certo, così, certo, diciamo, certo. Dello riassunto. Certo, certo. Ho capito questo. Hai capito più o meno questo. Esatto. Ok. I due se ne vanno. E la donna resta da sola. Devil Kir resta da sola. Tu stai osservando la scena da, diciamo, in terza persona. Ma a un certo punto sembra che i suoi occhi guardino proprio te, nella tua direzione, verso la quale tu stai osservando. E dice: chi diavolo c'è qui? Sembra averti proprio notato. A un certo punto alza la mano e ti senti come afferrato per la gola, immobile, e senti, diciamo, il dolore pervadere il tuo corpo in modo insopportabile. Okay. Ogni tuo nervo sembra gridare di dolore. Questo è il karma di Dean. Ah, molto molto interessante, dice, mentre, diciamo, ti sta torturando. A un certo punto ti lascia e ti svegli di soprassalto dopo il dolore subito. Il dolore è ancora fresco nella tua memoria, come se l'avessi subito per davvero. Vado a sciacquarmi la faccia per riprendermi. Tu sei un po' maggiore, no? No. Non dormo normalmente nella barca. Che ore sono? Sono le 3 di notte. Io sono a fare la guardia. Mi alzo, vado fuori dal mio alloggio, rinuncio a riposarmi per questa notte perché sono sicuro che non riuscirò più a dormire. E mi dirigo nella stiva dove c'è la mia cassa. E mi siedo su, mi metto con le mani su di essa e rifletto per qualche minuto. Dopodiché mi ci siedo sopra e poi mi stendo su di essa e cerco di riposarmi senza riuscirci. Stop. Ok. Che c'è? C'è sua moglie nella casa. Chi lo sa cosa c'è nella casa? Chi lo sa? Mi hai fatto venire un colpo. Ho detto che cosa sta male. Cioè... Stop. Tu spera che non ti lo sappia. E anche il figlio, ma che c'è? Tutta la famiglia. No, il figlio c'è. Cioè, io ho preso il corpo di sì, il padre. Cioè. Il cane. Ah, il corpo. Lui vecchio. Ah, sì. Dovrebbe anche esserci te da vecchio. Deve essere. Comunque. Questo è quanto. Trascorrono altri 3 giorni. Durante la quale tutto prosegue tranquillamente. Non venite attaccati. Né. Ci riferisci queste cose? Sì. Ah sì, scusa. Come vuoi. La sera successiva, quando stiamo mangiando tutti insieme, condivido con voi i miei turbamenti e però ve li dico. Sei preoccupato, pensi che... Sì, sono piuttosto turbato perché... Non hai mai avuto sogni del genere. Esatto. È stato molto vivido, molto molto molto vivido. Pensi che possa essere stato qualcosa di più di un sogno? Sì, questo non lo so. Cioè, tutti i propri sogni sembrano vividi. La mente lunga Diego spesso fa brutti scherzi nel sonno. Magari imparare a convivere con il nostro passato. Credo che la sratite però potenzi i nostri sensi e le connessioni tra sì, le menti. Questo lo sai per certo. Quindi potrebbe anche non essere. Cioè, i sogni potrebbero non comportarsi in modo normale qui. Comunque sia, per ora resta un sogno fino a prova contraria. Ma credo che poi sia anche una dea, maggior ragione la tua dea, quindi... Quello sicuramente c'è una particolare connessione tra di noi, soprattutto considerato che ci siamo già incontrati. Baka, infedele, stolto. Tu lo sai, io credo solo in una via, la della via del metallo. Hai modo di parlare con la tua dea? No, ovviamente no, purtroppo no. L'unica volta che l'ho incontrata è stata più di 140 anni fa. Puoi pregarla però. No, 130. Lei lo sente. Quando e mi ha detto di venire qui. Cosa? Come è successo? È comparsa al tuo cospetto. Una notte al mio cospetto e mi ha dato gli ordini. Sempre durante il sogno? No, è comparsa in carne e ossa davanti a me. E sono sicuro che non fosse un sogno. Era perversamente bella, la definirei. E... Tanto da restare nella tua memoria per 130 sì, anni. Sì, questo sicuro, sì. Vabbè, comunque sia, non sappiamo ancora nulla. Sta di fatto che se assumessimo come vero quello che ho visto, sappiamo che Verichir ha un piano e che almeno una delle due divinità principali non vuole attuarlo, mentre per quanto riguarda l'altro... Quali due divinità? Cioè, Yama e Oberyn. Yama e Oberyn. Le altre due... Che sono, cioè, Yama, Oberyn e Verichir sono le 3 divinità principali di questo Pantheon. La Trimurti, tra virgolette, no? E una è del dolore, una è il dio artefice, Yama, e una è il dio della morte, l'unico che padroneggia la vera resurrezione, quella che non è una semplice reincarnazione. Certo. E, anzi, lui proprio sta anche in vita per sé. Esatto, cioè l'unico che padroneggia la vita eterna e queste cose qui. Invece Yama passa un corpo all'altro. Invece Yama sì, passa un corpo all'altro. Tutte le tutti non gli altri magari con incantesimi di trasmutazione, certo. Poi può riassumere se esatto, simili. Esatto, però esatto. L'idea è che comunque ha necessità di morire. No, vi ricordate che nella campagna ho fatto c'è passato da un'armatura all'altra. Va bene, sì. Ok. Comunque sia niente, questo è quanto. Vabbè, vedremo gli sviluppi. Ah, dicevo che la dea aveva un piano che pare sia stato bocciato dalla maggioranza della Tremor. Qualsiasi dio si metterà sul mio cammino, lo spazzerò via. Se mi staccherà per conquistare e distruggere il trono. È un po' ambizioso, Barbaro. Mettersi al piano degli dèi. Smaestra da stolti. Si vede che non hai mai incontrato uno. Io sì. Che ne sai? Io incontro il metallo tutti i giorni. Il metallo è l'unico dio. Povero miscredente. Mi hai fatto passare l'appetito. Cioè, come se non bastassero queste probabilmente carni umane che mangiamo tutti i giorni. Magari è stato quel butti segno, che malfidenti. E mesca un piede che esatto, e butta giù un piede per mesto. Magari è perché è rimasto sullo stomaco che ha fatto quel butti segni, no? Può anche essere. Sì, può essere, può essere. No, ieri avevo mangiato la torta. Esatto. Ah, è vero, la torta. No, la torta di Damasco. Ormai si è abituato a mangiare uomini. Esatto. Quando mangi la torta. Ha ricorrenze di proteine. Esatto. Va bene. Va bene, basta. Ok. Fine della cena per quanto mi riguarda. Il terzo giorno di viaggio. Notate... Passato la settimana. Sì, esatto. Poi altri tre giorni dopo okay. Il suo sogno, dicevo. Non tutti hanno fatto il suo successo, no, voi con calma, ragazzi, in grado di così un filo all'altro al massimo, cioè se ci sono tutti i veggenti, sì, ci sono. Che bello. E dicevo, il terzo giorno notate in lontananza a non saprei esattamente 30 km, 20 km insomma comunque molto lontano, parecchio lontano, quelli che sembrano essere degli edifici. Molti edifici, uno in fila all'altro, dunque una città, verosimilmente. Cavolo. Sempre, ovviamente, tutto il paesaggio circondato da questi buchi con insetti, non dimenticateveli che ci sono. Certo. Ah, stranamente, notate comunque che Atra il Gollum non ha ancora fatto la sua apparizione. Ah, giusto. Cioè, non sapete se magari non si è confuso con Hale. O magari siamo già troppo lontani, perché... O magari vi siete allontanati dal luogo in cui è morto, velocemente, sì. Eccetera, cosa che non avete fatto l'altra volta. Comunque, forse magari un particolare effetto di come era morto Hale, perché comunque era stato mantenuto in vita con la è vero, sì, poteva anche essere, sì. Poteva anche essere quello. Comunque, niente, scorgete questa città in lontananza. Non è sulla vostra rotta. Ah, ecco. Non è sulla vostra rotta. Ecco, chiediamo a Guerimbert, l'halfling. Esatto. Qui direi che decide Jung cosa fare. Sì. Sì, certo. Capitano, questa città non era attesa. Sì, me ne rendo conto. Stando a quanto avete riferito... Ah, è vero. Voi non avete detto se avete riferito quello che avete scoperto, che aveva detto il diavolo. Sì, vero. Sì, direi che avevano detto... Sì. Le tre risposte. Tutto. Se avete risposte, sì, anche... Magari che... non del flauto, per dire, però. No, ecco. Sì, perché sennò ce lo requisisce. È capace di requisirci. Il flauto no. A cui mi ha mentito a Jung? Noi abbiamo mentito. Ho omesso. Esatto. L'omissione punibile è solo se c'è un obbligo giuridico esplicito. Non esplicitato dalla legge, non ho figure. Dunque, c'è che mi ha detto: trova tutti i tesori, mi dici quello che ho trovato. Quindi, tecnicamente. Comunque, ma non so quanto sia saggio avventurarsi in una missione esplorativa in una città abbandonata, probabilmente abitata. Sì, quasi sicuramente abbandonata a Monaco, visto quanto ci è stato detto. O se non abbandonata, abitata da non morti o diavoli. Potrebbe forse esserci, però... Visto che non è sulla nostra rotta, possiamo tranquillamente ignorarla, direi. Vabbè, no, io sono nella stiva, quindi... Sperando che lei faccia altrettanto, naturalmente. Io non ho parlato. Nel senso che lei vi ignori, che non arrivi niente di... Halfling, dobbiamo fare un giro particolarmente lungo? No, è proprio distante, non ci dobbiamo passare neanche vicino. Ah. Cioè, nel senso, voi dovete far così, la città è qua. Ho capito. Non c'è niente. Magari se siete qua così non potrebbe essere una buona fonte di aria. Aspettate, quella che abbiamo ci basta sicuramente per mesi. Mi dispiace. No, anch'io sono canna, anch'io sono pervaso dalla curiosità. Tuttavia, immagino che sia più sicuro proseguire. Ok. Sì. Vi avvicina comunque, come vi ho detto, cioè voi siete lontani, però comunque dovete avvicinarvi perché la città è qua, tipo. A quanto si capirà molto a quanto passiamo più vicino possibile a quanto siamo, decine di chilometri comunque. Sì comunque decine di chilometri, cioè ci dobbiamo avvicinare tuttavia avvicinandovi a un certo punto la nave smette di avanzare, si ferma, urca, come se il motore si fosse fermato completamente. Che diamine è successo? Sono sul ponte, corro subito al motore, controllo la sdratite. Barbaro, la sdratite c'è, tu eri lì. No, okay. Esatto, cioè... Cosa è successo, Bacca? Cosa hai visto? Nulla, è tutto rimasto esattamente com'era qui. Anche perché la sdratite che viene usata nel motore al momento non è quella che tu stai controllando, comunque. Cioè, ah, lui sta controllando un... Sì, ah, io pensavo fosse la sdratite tipo... Sì, non ve l'ho spiegato bene, in effetti, scusate. Pensavo sarà stati te, tipo che io. Cioè, ne prendete un po', no? E la mettete nel motore, diciamo, così. Ho capito. Sarà finita la statite del motore. Il motore non sembra essersi guastato, te lo dico subito, immagino tu lo stia controllando. Certo, sono lì. Non sembra essersi, semplicemente sembra essersi proprio fermato, se basta. Beh, due pugni lo fai partire, forza! Stai lontano, Baka. Guarda quello giusto io. Da là sopra non riesco a vedere niente. Su, mago, capisci qual è il problema e ripartiamo. Posso fare una prova di spellcraft? Perché spellcraft? Scusa, sarà un problema tecnico. Perché comprende anche magia arcana. Conoscenza arcana 17 più 25 37 40. Allora il motore 40. Sembra 42, scusa. Perfettamente funzionante. Anche Jung scende comunque a vedere quello che sta succedendo. Qual è il problema? Perché non ci siamo fermati? Non ho capito cosa sto con 42. Allora sì, scusa, dicevo, il 42 sembra essere tutto perfettamente andante. Mi offrono un posto da assistente all'università. Sì, assale. Guardando quello che manca, e provi a lanciare un incantesimo e nulla accade. Oh cazzo, non va la magia. Anche i vostri oggetti magici sembrano essere tornati normali. Potremmo essere entrati in un gigantesco campo antimagia o qualcosa di simile che ha paralizzato i poteri. Perché il motore va con la magia, ovviamente. Cioè, di qualcosa provoca l'antimagia. Io ho sempre detto che la magia è sovvalutata. Forza, dobbiamo trainare questa nave. La magia non è sopravvalutata. Proprio la ragione grazie a cui ci muoviamo così velocemente. Dannazione. Il motore nostro riparte improvvisamente. E anche i vostri oggetti magici sembrano essere di nuovo. Vedi? La magia facilecca. Ciò è molto. È preoccupante. È molto, molto preoccupante. Non c'è niente all'esterno. Ma questo mentre si avvicina alla città. Oltre alla città e. Eleni! E i buchi no. Vieni qua. Ma questo succede mentre siamo vicino alla città. Trotterelli come un ognomino. La prossima volta. Anzi. La tua magia funziona? Provo. Al momento sì. Non credo che fosse solo un mio problema prima. No, anche gli oggetti magici non funzionavano. Cioè, abbiamo capito che gli oggetti magici non andavano. Sì. Ok. Va bene. Cosa può essere, mago? Potrebbe essere un campo antimagia intermittente, ma. Prova a fare perception. E se qualcuno avesse lanciato un incantesimo sulla nave? Ci potrebbe aver visto da quanto città. Ne so un ma campo. È importante, rimettiamoci in cammino, cioè, o meglio e Jung? Sì, Jung dice. Beh, mi sembra importante sia, sì, esatto, per quanto sia importante capire il problema, sarà meglio rimettersi in cammino più presto prima che qualcosa giunga alla nave e cerchi di distruggerla. Va bene, mi sembra un bersaglio facile. Possiamo forse allontanarci dalla mettete città, mettete in moto di nuovo la nave. Tuttavia dopo un minuto che va, la magia riscompare di nuovo. Avevi dedotto bene. Maledizione. È un campo antimagia intermittente. Tuttavia, col fatto che i motori si devono avviare anche, certo, quando vengono spenti, facciamo riuscite ad avanzare strada. Pochissimo. Maledizione. Io direi, cerchiamo di fare retrofront e quanto uscire. A quanto pare la città non ha deciso di ignorarci, ammesso che provenga dalla città questo problema. Beh, non verrà dai buchi delle api lì, insomma, ci siamo passati avanti per tanto tempo. Punto direi di spostarci. È l'unica città. Sì, è l'unica via. Baka, esatto. Forse non ha detto una cosa completamente assurda. Tipo? Rispetto al trainare la nave. Come fate? È grande. No, un tirannosauro? No, molto grande. Vabbè, tirannosauro c'è sul ponte. Quanto pesa? Tanto, tonnellate. Okay. Scusa, non è magia, poi garantirlo. E poi tra l'altro, esatto. Ah, giusto. Proviamo dove ci tutto quello che faccio è magia, non posso fare niente. Stai zitto, fermo, nell'angolo piange. Esatto. A rileggere il libro, ma dove posso fare? Dai, sono provoci, va bene. Perché? Non puoi farti, Abraham. Ci pensano quelli forti. Giuro che avevo studiato, mi hanno bocciato. Esatto. Ho capito. Direi di provare ad avvicinarmi. Cosa sai sui campi antimagia? Cosa sai sui campi antimagia? E giusto, illustraci. Allora, faccio una prova comunque. Non c'è molto da sapere. Sei 31. Non va la magia, appunto. Più o meno Azalea. Anche io. Ok, ma ha segnato il punto. Tuttavia, nella mia esperienza, i campi antimagia sono molto molto piccoli. Sì, è richiesta una magia molto potente per creare uno così grande. Quindi non vorremmo scontrarci con chi. È richiesta una magia molto potente anche dubito perché che sia un chi. Un campo antimagia così potente è sicuramente azionato da un qualcosa. Se solo a parte una grande forte di Asvatite ci vuole. Dio, Se non Dio, comunque siamo messi abbastanza male. Se sapessi solo distruggere le magie degli avversari. Tuttavia non capisco perché proporre un campo antimagia intermittente e non semplicemente uno persistente. Forse non c'è abbastanza... Forse è stato danneggiato. Forse è legato alla città abbandonata. Potrebbe essere sicuramente legato al mio sogno, ma cioè potrebbe essere, ma non abbiamo elementi. È però un mal funzionamento, secondo me, di un meccanismo di difesa. Potrebbe essere un'antica, esatto. Strano che queste parole escano dalla mia bocca, ma il barbaro potrebbe avere ragione. Sì, il barbaro ha spesso ragione, mettetelo in testa. Sì, dice Jung, un po'. Il passaggio logico. Ok. Dopo tutto lui è la voce di questo. Festeggeremo stasera, Baka. Questa è la cosa intelligente che hai detto. E non è la prima. Questo comporta che per disattivare il meccanismo in stato di dissesto dobbiamo avventurarci nella città, sperando che sia effettivamente un meccanismo malfunzionante e che non dobbiamo fare altro che tirare una leva. Ok, sono l'unico che non ci crede? Credo che l'idea migliore sia io non ne so niente, ma io dico una cosa: se c'è un meccanismo che fa questi problemi, io lo spacco, il problema l'ho risolto. Una martellata, questa è una grande idea. Contavamo su quello. Stavolta contavamo su quello. Approvo. Cosa hai da dire? Che non ci siamo addentrati ancora tanto in questo campo antimagia della città. Facendo retrofront saremmo fuori in poco tempo. Si può cercare fare di un giro molto più largo a girarlo. E avvicinarci così alla città. Sarebbe un giro molto... Anche perché se ci avvicinassimo alla città saremmo ancora molto più dentro a questo campo, tecnicamente. No, perché andremo a piedi. Senza magia. Tu non hai magia, lei non ha magia. È una pessima idea. Siamo noi tre e basta. In realtà quello che dici non è esatto. Per il semplice fatto che all'inizio voi avevate i motori già avviati e vi siete addentrati per un minuto all'interno del campo. Se i motori ora richiedono tipo 50 secondi per riavviarsi, anche 55, ritornare indietro per questo minuto richiederebbe ore. Comunque, si potrebbe fare. Piuttosto che entrarsi senza magia in questa città, potremmo in realtà partire solo. Ma avanziamo, o magari non avanziamo proprio. No. Cioè, avanzate veramente di pochissimo. Cioè, neanche meno di un metro. Pochissimo. Anche perché i motori erano a pieno regime prima. Quindi erate veloci. Infatti. Adesso, cioè. Dai, certo, perché parte in prima. Ci conviene fare. Ci possiamo provare? Vedere. Sì, non hai game questa barca? Questa bagnarola? Io cosa dici? Ingegneri. Fatemi un calcolo: quanto tempo ci vorrebbe per tornare indietro? Troppo. 20 nature. Non so se era nature. Ma anche una prova di intelligenza normale. Barca dice troppo. Un po' di calcoli. 17 più 8. 25. Ok, considerata la migliore delle ipotesi, 2 giorni. La peggiore, 1 settimana. Ho capito. Si può fare, secondo me. Secondo me no. Una settimana qua in mezzo. Siamo esposti a qualunque cosa. Siamo esposti a troppi pericoli. Probabilmente in una giornata potremmo andare e tornare. Solo a 20 km da qui la città. Il fatto è che se c'è un campo di magia, molti di voi sono fuori gioco. Sì, ma è intermittente. Con questo equipaggiamento che abbiamo ogni tanto sono fuori gioco. Non è molto anche la spada si è affilata, diventa fuori gioco. Tutte le robe che c'è addosso che danno più. E le pistole? Meno male che ho ancora il tuo capo del tavolo. Le pistole sono normali, cioè le tue non sono neanche incantate, mi pare. Sono più uno sky pistol. No, le sue non lo sono. Non sono uno sky, ma non hai preso, non ha preso le sky pistol del... Quanto è grande la città? Certo? No, dai, ma così lontano è difficile da dire. Comunque abbastanza. È più grande la città che abbiamo da visto. Lontano. Cioè della capitale, magari. Quanti abitanti potrebbe fare? Ma così da questa distanza capisci che poteva essere una città principale. Okay, molto grande. Una città molto grande dei suoi, probabilmente. Io propongo di scendere un gruppo abbastanza numeroso stavolta. Sì. Tuttavia, per quel giorno che resterà difesa la nave, voglio che sia difesa dal meglio. Quindi voi resterete con me a difenderla, mentre gli altri andranno a esplorare la città per vedere se c'è qualcosa che può essere fermato. Va bene, capitano. Figo. Ok. Se vanno e tornano. Sì. Quindi chi va? Esattamente una questione che non ho intenzione di sottovalutare. Se domani non saranno ancora tornati, voi partirete alla volta alla città e solo io resterò alla difesa della nave. Non mi piace molto questo. Va bene, neanche a me, ma non mi sembra che abbiamo molte alternative se non metterci al peggio una settimana a spostarci da qui. In quanti siamo su questa nave? Potremmo spostare la nave. Siete, siamo? Siete voi. Baka, nemmeno tu potresti spostare una nave di queste dimensioni. Noi siamo 6, quindi 7. Pesa più in più di 700. Noi siamo 6, no, strada, i due nani. Però sto pensando 5. Che così 5 Jung, 5 poi c'è Lalfing, Azalea, Corinne, non lo so. Prima c'era anche Akka. Corinne è l'umana, sì, quella, che ha, quella che ha guarito Baka quella volta che era... Ha pesa proprio tanto. Ah, sì. Quella che cioè, no, era una cantrice. Potrebbe stare con noi. Sì, ecco, invece no. Che palle che siete, questa Corinne, basta, è morta al posto di Atral. Ah, perché Corinne voleva... Perché? Corinne... stare al Corinne con noi. Corinne è meglio che vada con loro, sarà bisogno di quelle mediche che chiameranno. È meglio sì che Corinne. Non sono forti come noi, indipendenti, non hanno un bargo che li guida. Il mio consiglio, Corinne... Il mio consiglio, Corinne, è di non esporsi e di rimanere in un luogo riparato. I suoi alleati potrebbero tornare a curarsi da lei dopo eventuali battaglie in un momento in cui la magia funziona. Sì. In effetti, potresti dargli il tuo piano? In effetti, senza, se si dovesse venire attaccati in uno di quei momenti in cui la magia non funziona, potrebbe essere una brutta situazione. Quindi sì, in effetti resterà qua. No, no, io intendevo che può andare. Ah. Però restare tipo al sicuro fuori dalla città o nascosta da qualche parte, gli altri tornavano da lei. Che al sicuro da sola? So, forse no, ma non mi sembra. Vabbè, come vuoi. Se in effetti la cosa migliore è che resti qua. Mm. In effetti. Quindi? Però ha un attacco di panico e non ci può curare. Vabbè, diciamo che non mi cura in battaglia. Ok. Bene, quindi. Deve essere tenta protetta ermeticamente perché così può curarvi boom dopo, no? Cioè. Certo, certo. Ok. Il gruppo, l'altro gruppo, quello composto da Azalea, Corinne, Werimbert, cioè la Halfling, i due Forgebrand e Istral, quindi ho diventato uno prima, c'era anche Istral. Anche il finocchio. Parte al esatto, parte alla volta della città. Che gruppo adesso? Noi avevamo parlato. Certo, siamo la punta copriguardia della galassia. Mamma mia, cioè... siamo uno peggio dell'altro. Ce n'è uno sano. Ok. Tu sei Gamora. Chi? Ah, Gamora, grazie. Dopo circa 10 ore che si sono allontanati. No, vabbè, provo voi fate, esatto, tu cosa fai? Ditemi. Faccio periodicamente delle prove per sapere se la magia quanto funziona spesso, e mi segno, giusto, quando non funziona, okay, a intervalli di tempo. Sembra essere abbastanza regolare, non è precisissimo, ma quanto? All'incirca ogni 2 minuti. Ah, ogni 2 minuti c'è, ogni 2 minuti non c'è. Esatto. Ho capito. Beh, continuo a tenere in forma Jung e gli altri. Cioè, diciamo che lo scarto è di pochi secondi comunque. Non è esattamente 2 minuti, non è che spacca l'orologio, però più o meno. Potrebbe così essere un macchinario che non funziona o funziona male o poco. Potrebbe anche essere... No, niente. Potrebbe essere... No, niente. No. Quanto tempo ci metterà nei nostri compagni, secondo voi? Una giornata. Voi cosa state facendo? Io chiacchio con loro. Cioè, sì, ci vogliono circa 12 ore da arrivare là e 12 ore. Io sto sopra e controllo se succede qualcosa nella città. Tu stai su a vedetta. Ok. Tu? Non hai molto da fare. Ma io sono giù senza fare niente. Tu, Monaco, visto che non hai molte persone da dividere oggi, pulisci il ponte. Ma ci sono già io a pulire il ponte. Dai una mano ad Eleni. Visto che l'altro mozzo se n'è andato. Ah no, non è vero, è qua, niente, non è vero. Beh, 3 mozzi possono sempre far comodo, dice. No, ma no, scherzo, per oggi cucinerai tu. Va bene. Oh mamma mia. E bada che non sia la stessa roba che ci propina quella droga. Perché cavolo l'ho fatta cuoca? Vuoi faccio io il cuoco, cavolo. Andrò a vedere quali sono le scorte. Tu continua a controllare la sratite. Ti ricordo che il monaco comunque è nell'essere sospettati. Tu non eri con loro a sconfiggere lo scorpione. Eh sì. Non ti preoccupare, lo troverò presto. E neanche Corinne, tra l'altro, è fuori dalla lista dei sospettati. Ok, tu che sei a vedetta, fammi è sera. Ok. Dove sono partiti prova... al mattino? Sì, mattino tardo. Tarda mattina. Sì. Insomma, sono passate 12-11 ore circa da quando sono partiti. Fammi una prova di perception. Vuole 21. Niente. Non puoi fare, Scassavo. Lo rifaccio? Dai, lo devo rifare. vedi niente. Era difficile da vedere. Vabbè, non sembri notare niente di particolare. Lei fa la guardia, giusto? Ansia. Ansia, sì. Dopo un po' rifaccio un altro tiro, perché è passata mezz'oretta, quindi faccio un altro sguardo sulla città. Io guardo molto bene la stradita. Vero? Però devi aggiungere 5 alla CD. Dado percentuale. No. Il mio dado preferito dado percentuale, penso. Capito? Poi cioè, del caso. Lei per fare il mozzo sta segando la scopa perché è troppo bassa adesso. Tenera. Dai, è passata mezz'oretta. 1, 2, 3, 4, 5 siete. E pareva. Sono anche Jung e Colin. Ragazzi, però. Scusate, ero mezzo appisolata. Dov'è che eri tu? Così, per sapere. Io tu, ero nella mia stanza. No, facevi cucina, è vero. Mentre cucini per la cena, fammi una prova di perception. Tu, perché l'ha fatta lei prima. Non mi sembra giusto non darti l'occasione. No. 7 più 9. Sei un artefice del tuo destino, eh. Tu che l'hai fallita. Vai, devo fare anch'io. Dai, è passata mezz'oretta e faccio un'altra prova, no? Perché io sto a vedetta. Non è passata mezz'oretta, sono passati minuti. Ora è passata mezz'oretta. Cioè, togliamo questo, ma che. No. Che mi sa che qualcosa mi dice che ci vorrà la griglia. Così, dal fatto che il master sfoglia il bestiario con aria famelica. Mettila, prova a metterla lì. Scusa, sono botte da prendere. Mettila sul divano. O sul divano. Se volete le patatine, sono qui, comunque. Ah, ci sono anche le patatine. Portate io, sì. Provo, magari non apriamo, le prendiamo la prossima volta. Sì, forse meglio. Mezzanotte e mezza. È mezzanotte e mezza? Sì, mezzanotte e mezza. È mezzanotte 12 e mezza a giocare. Eh sì, perché hanno fatto tutte le sigle. Eh sì. Vabbè, c'è un combattimento, no? No, magari non facciamo il combattimento, però spiegaci cosa succede. No, non è il combattimento. Ho capito, ma è tardissimo, possiamo iniziare il combattimento. No, non dipende certo. Quanto è lungo. Ma è lungo. Sarà almeno un'ora. Voi avete orari? Sì. Meglio che vediamo che chi sì. Cosa appare e poi chiudiamo. Esatto. Ok. Ma non ho fatto neanche i dadi, oggi ho notato anche un dado. Vabbè, abbiamo fatto bello, mi piace. Com'è bello? Sì, sì, no, che bello. Sì, è bellissimo, però ho appena così più due danni, fatemi usare, no? Felicia? Ah. Scusa? Felicia? Quando è Felicia? Qui non si perde tempo. Ma che domanda è? Che domanda è? Oddio, ma fatti due. ti manca tanto. Non si chiede. Di brutto. Non si chiede la ciama. Ok, signora. Senti, diciamo... Non si chiede la ciama, signora. Nel gelo, attorno al tuo collo, ma riesci a spostarti... rapidamente ma prima che la cosa possa afferrarti e farti del male. Mi giro. Ti giri e non vedi nient'altro che un'ombra stare dinanzi a te. Tum, tum, tum, tum. Ok.